in primo piano. La linea dunque va a Roma. Buongiorno, ben ritrovata Betta. Buongiorno Irene, allora molte notizie, soprattutto politica e economia, quindi poi con te invece i nostri radioascoltatori avranno di che parlare, appunto di temi più importanti come la famiglia, hai parlato anche di femminicidio, insomma temi che sicuramente interessano di più, però anche quelli di politica e di economia tu sai che sono cruciali per il nostro paese. Sì sì, infatti io non farei la classifica, ma al termine della tua rassegna stampa ti coinvolgeremo anche sui temi di spunti di vista, soprattutto la lettura, perché sei una scrittrice, non so se ho rivelato un segreto. Sì, un po' in pectore, però sì, ma soprattutto la lettura è importantissima, no? Finalmente andiamo sotto l'ombrellone e possiamo leggere tutti quei libri che si erano accumulati sul comodino e non avevamo tempo di leggere durante l'inverno, Irene. Quelli che passi il dito c'è un, sono 3 centimetri di polvere, però fai un gran figurone quando la gente entra perché sembra che di notte proprio passi le ore a leggere. Grazie. Già, è proprio così. Allora, andiamo alla lettura dei giornali. Ciao Irene, ci sentiamo fra po'. Immigrazione, la battaglia tra Vescovi e Lega è il primo titolo di Repubblica. Poi migranti, sfida Vescovi, Lega, il titolo del Corriere della Sera. Libero, accoglienza a tutti i costi, rifiutano i clandestini, denunciati 10 sindaci. Il Sole 24 Ore, a tirare la crescita sono i campioni del Made in Italy. Stampa, più contratti stabili e ora si pensa a misure per le famiglie povere. Il piano di Renzi per il Sud, il Giornale, eliminati gli aiuti alle imprese. Vediamo, sempre critico il Giornale. Riforme, il PD di apre a Berlusconi, il Messaggero, più inceneritori per tutti, il Fatto Quotidiano. Poi c'è sicuramente, ci sono delle notizie di calcio, mercato, per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport, e c'è una notizia che poi leggeremo sul Manifesto proprio per quanto riguarda la Turchia. Allora iniziamo, intanto diamo il benvenuto a Alfonso Raimo dell'agenzia Dire. Buongiorno Alfonso. Buongiorno Elisabetta. E buongiorno a voi tutti. Andiamo subito a leggere le notizie di economia. Ricordiamo poi che il nostro giornale Il Sole 24 Ore non va in vacanza e quindi l'estate con il tuo amico Sole, guida pratica al lavoro, i contratti a termine e alle pensioni, il calcolo, passaggio al contributivo. Ma l'inchiesta di oggi sul Sole è proprio le chiavi della manifattura, la svolta delle medie imprese per diventare player globali, attirare la crescita sono i campioni del Made in Italy, si accentua la polarizzazione delle PMI o asfittiche o eccellenze. Ritorni agli elementi di base, il sistema industriale italiano riparte dai suoi punti di forza, le medie imprese ultra internazionalizzate, le piccole aziende in connessione diretta con le catene internazionali del valore, i territori inseriti nei mercati globali e quel particolare saper fare impresa che rappresenta il punto d'incontro fra industria e artigianato, la fabbrica di matrice novecentesca e laboratorio high tech, evoluzione degli antichi opifici di matrice rinascimentale. I nuovi lavori al tempo del Jobs Act è un editoriale di Alberto Orioli che dice chiaramente che ci siano il 36% in più di contratto a tempo indeterminato nel primo semestre di quest'anno è un fatto positivo, così come l'aumento del 30% delle trasformazioni di rapporto di lavoro a tempo in altrettanti contratti senza scadenza. Però poi lui fa un paragone tra l'INPS e l'Istat, perché per l'INPS c'è ottimismo, mentre per l'Istat aumenta la disoccupazione. Allora lui dice in realtà il passaggio dei contratti a tempo ai contratti stabili, che dà più certezza di prospettive ai lavoratori e alle loro famiglie, è un segnale di minimo timore degli imprenditori a fare assunzioni senza scadenze, e questo, dice Orioli sul Sole 24 Ore, è merito del Jobs Act. Il vantaggio della decontribuzione per le nuove assunzioni induce una semplificazione nelle forme di assunzioni e l'IRM determinato diventa potenzialmente il contratto prevalente. Non c'è però ancora occupazione aggiuntiva, ma il travaso dall'area della sfiducia degli inattivi, che un posto nemmeno lo cerca, all'area della speranza di chi un lavoro intende cercarlo attivamente perché pensa che prima o poi lo possa trovare. Quindi insomma c'è, però dice ora Orioli, proprio tipico dell'Italia, che L'INPS racconta che l'Italia dei contratti di lavoro dispensa ottimismo e fiducia. L'Istat conta le persone e racconta un altro mondo, con 22.000 occupati in meno a giugno e un tasso di disoccupazione risalito al record del 12,7%. Chi ha ragione? Ecco, questa è la contraddizione italiana, Alfonso. Aumentano i contratti a tempo indeterminato, però poi comunque aumenta anche la disoccupazione. Eh sì, perché sostanzialmente assistiamo all'affermazione del Jobs Act come contratto di riferimento, quindi dall'anno scorso a quest'anno quello che è avvenuto è che molti dei contratti che sono cessati sono stati rinnovati con il nuovo contratto, ed è un fatto positivo perché rispetto ai contratti a termine, soprattutto ai contratti di collaborazione più tra virgolette precari, il Jobs Act contiene molte più tutele. Bisognerebbe capire poi a fine anno quant'è l'incidenza della nuova occupazione, cioè quanta nuova occupazione si crea rispetto al prodotto interno lordo. Siamo in presenza di una, quella che viene chiamata una ripresina, cioè degli indici economici che vanno verso il segno positivo. Il segno positivo reale, quello che ci si attende davvero, è che questo si traduca anche in una occupazione di quelle persone, si parla insomma di un vasto esercito di scoraggiati, per così dire, che al mercato del lavoro non avevano più accesso e che forse sulla base del Jobs Act, che è un contratto che prevede collegato alla manovra di stabilità una decontribuzione che arriva intorno agli 8.000 euro per assunto, forse questo incentivo potrebbe intaccare anche quel bacino di lavoratori, quel bacino che finora è insomma il bacino vero degli esclusi. Più contratti stabili, la stampa, e ora si pensa a misure per le famiglie povere. L'INPS più 30%, gli assunti a tempo indeterminato. Renzi esulta, il vice ministro Morandi no ad interventi sulle pensioni, perché avevamo detto ieri che appunto il governo pensa nella nuova legge di stabilità a degli interventi per poter andare in pensione prima, però con una diminuzione dell'assegno, no? Rispetto al primo semestre del 2014 quest'anno ci sono state 250.000 assunzioni in più, un balzo in avanti del 36%. Il premier Renzi esulta, è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta. E sulle tasse, dice la stampa, Renzi prepara la sfida finale alla minoranza PD, i precari e non gli stabilizzati. L'Italia riparte con buona pace di chi sosteneva il contrario. Ora è chiaro che queste assunzioni a tempo indeterminato sono frutto del Jobs Act, no? Quello che noi diciamo sempre noi giornalisti, ma quanto in realtà sono i contratti nuovi? E questo è il problema, no, Alfonso? Sì. Cioè si è un po' obbligato le aziende a fare questo nuovo contratto, però poi al termine dei 3 anni queste aziende rinnoveranno i contratti? Questa è la prima domanda. E la seconda domanda: quanti posti veri in più di lavoro si sono creati? È quello, è tutto lì. Insomma, il vero rebus italiano è tutto in questa domanda, perché se anche si vedono i numeri dell'INPS di ieri, ci si accorge che mentre ci sono delle regioni in cui la dinamica del lavoro va molto bene, prima fra tutte il Friuli Venezia Giulia, per dirne una, nelle regioni in cui invece la ripresa non c'è, anzi si è detto con il rapporto Svimez della scorsa settimana che si cresce meno della Grecia, in quelle regioni, cioè Sicilia, Puglia, Abruzzo, il lavoro non cresce affatto, neanche col Jobs Act. Quindi sostanzialmente l'Italia è ancora incagliata in una dinamica che non la vede essere concorrenziale con i fattori di produttività dei concorrenti. Cioè, ogni lavoratore italiano produce in rapporto ad altri lavoratori di altri paesi europei ancora troppo poco per consentire al prodotto interno lordo di crescere e questo di creare lavoro, cioè di incentivare nuovo lavoro. È la vera scommessa che ha di fronte il governo, e credo che insomma le riforme che hanno messo in campo e quelle che andranno a voto da qui a fine anno vogliano incidere proprio su questo fattore, cioè di determinare un processo virtuoso che consente un aumento di produttività. segnala a questo proposito l'analisi, la mini ripresa proprio sul Corriere della Sera, quella che, di cui tu accennavi. L'Italia è la seconda manifattura d'Europa dietro la Germania, ma sta perdendo continuamente terreno sulla produttività. Nel periodo 2010-2014 la quota degli investimenti delle imprese rispetto al PIL è scesa del 3%, mentre in Germania è salita dell'1%. Da noi il PIL per occupato è sceso del 2,5%, mentre in Germania è cresciuto del 2,5%. Sul fattore lavoro i governi sono intervenuti liberalizzando i contratti, eliminando l'articolo 18 e tagliando l'IRAP e i contributi, ma rispetto ai 23,2 milioni di occupati dell'aprile 2008, il picco, ora ce ne sono 1,1 milione in meno. Insomma, questa è l'analisi del Corriere della Sera. Segnalo anche invece la legge di stabilità avrà misure anche per gli autonomi, lo dice Filippo Taddei su Repubblica, responsabile economico del PD. I dati dell'INPS rappresentano un segnale molto forte di un'inversione di tendenza. Ecco, vediamo Alfonso Raimo con noi dell'agenzia Dire, no? Tutti quanti poi un po', il governo ovviamente esulta e invece ci sono poi le critiche. Anche a proposito di queste critiche segnalo un articolo di Antonio Castro che era con noi ieri su Libero, che proprio dice: Boeri dai numeri, smentita l'euforia IMSS, i posti di lavoro calano. Ecco, Alfonso, il centrodestra attacca il governo, il centrosinistra dice no, abbiamo fatto bene, no, è ovvio, è il gioco delle parti. Eh sì, è la legge dei numeri questa, insomma, perché ognuno poi tira i numeri verso la sua causa. E ieri per esempio si assisteva un po' così col sorriso alla messe di comunicati stampa che mettevano in relazione i numeri positivi senza dubbio dell'INPS con i numeri, gli altri numeri che sono quelli degli emendamenti al Senato. Allora tutta la maggioranza renziana diceva: a noi piacciono questi numeri, questi sono i numeri che noi produciamo, quelli dei lavoratori che hanno un contratto stabile, a voi piacciono questi altri numeri, cioè i numeri degli emendamenti che bloccano le riforme. Però è un caso così curioso di collegamento, di utilizzo dei numeri ai fini della comunicazione politica. Infatti noi adesso passiamo proprio al secondo argomento grandissimo che c'è sui giornali, ed è appunto quello delle riforme costituzionali. Ora, i radioascoltatori è 20 anni che sentono parlare di riforme costituzionali e magari si sono anche un po' stufati, però è l'apertura del Messaggero: il PD apre a Berlusconi, il vice segretario Guerini torni al tavolo, noi l'aspettiamo, la strada fatta insieme è positiva, ultimatum Dem alla minoranza, se salta il nuovo Senato finisce la legislatura, i ribelli dicono è falso. Ecco, qui abbiamo una lettera che segnalo subito di Giorgio Napolitano, l'ex presidente, a Eugenio Scalfari, e che in sostanza dice: si sta finendo per parlare dell'approvazione di questa riforma essenzialmente in funzione di come si giudica, di che cosa ci si aspetta o di cosa si teme dall'attuale Presidente del Consiglio. L'essenziale, scrive Giorgio Napolitano ad Eugenio Scalfari su Repubblica, è dar vita a un nuovo Senato che arricchisca la democrazia repubblicana, dando ad esso la natura di un'istituzione finora assente che rappresenti le istituzioni territoriali. Altrimenti di fatto il superamento del bicameralismo paritario non ci sarebbe. Rimarrebbero intatti i fattori di fragilità e debole capacità deliberativa dell'esecutivo, si lascerebbe il paese in quell'assoluta incertezza e tortuosità dei percorsi di approvazione delle leggi che ha offerto spinte e alibi al degenerativo precipitare del rapporto governo-parlamento nella spirale dei decreti legge, dei voti di fiducia, dei maxi emendamenti e articoli unici. E dunque in discussione non uno schema astratto di riforma o qualche puntiglio politico, bensì un'esigenza vitale per un valido funzionamento, specie nell'attuale fase storica del sistema democratico italiano. Questo Giorgio Napolitano, e noi subito dopo la pausa daremo la linea di nuovo ad Alfonso Raimo proprio per un commento di questa lettera dell'ex Presidente della Repubblica ad Eugenio Scalfari su Repubblica. In primo piano. Allora, subito prima della pausa appunto avevamo parlato di questa lettera di Giorgio Napolitano a Eugenio Scalfari. Sappiamo che l'ex presidente è stato, no, il deus ex machina di queste riforme istituzionali che però dopo 20 anni ancora non sono state approvate. Sappiamo per la Costituzione italiana c'è una Costituzione rigida per cui doppio passaggio, parlamentare per cambiare una legge costituzionale a 3 mesi di distanza, con 2/3 del Parlamento che devono votare a favore. Insomma, Alfonso, ce la farà Matteo Renzi a sconfiggere questo immobilismo che già da quando è stata approvata la Costituzione veniva notato rispetto al sistema politico italiano, con questo bicameralismo paritario? È la vera sfida prima della partita delle elezioni di primavera, che sono elezioni amministrative ma potrebbero diventare anche elezioni politiche, come ieri il PD ha fatto in qualche modo trapelare. Da Napolitano viene un invito al coraggio, cioè un invito a dire: passiamo dal bicameralismo al monocameralismo e sostanzialmente non abbiate paura. In realtà bisogna tener conto del fatto che in Senato le forze, per così dire, reticenti da questo punto di vista sono maggioritarie, almeno se guardiamo astrattamente i numeri che sono quelli che abbiamo detto degli emendamenti, 500.000 per il momento, ma potrebbero diventare, se Calderoli mantiene quello che ha detto, 6 milioni in aula quando saranno aggiornati i termini per gli emendamenti. E poi soprattutto sono i numeri delle forze in campo, perché lo schieramento di forze tra loro eterogenee, Movimento 5 Stelle, Lega, i dissidenti PD, Forza Italia, che sono contrari all'abolizione della funzione elettiva del Senato, cioè dell'elettività del Senato, rappresentano a Palazzo Madama 176 senatori, quindi attualmente sono la maggioranza. Matteo Renzi è chiamato in sostanza a fare un'operazione politica che gli consentirebbe di rafforzare la sua maggioranza, se ci riesce, o addirittura, secondo quello che sostanzialmente si apprende nei boatos parlamentari, anche a mutare la natura del suo governo, se questo vorrà dire che cambia il patto di maggioranza, cioè se quel Nazareno, che era stato originariamente il patto fondativo della sua maggioranza di governo, venisse rinnovato con un nuovo accordo con Forza Italia, che a quel punto sbloccherebbe anche il cammino delle riforme. È tutto da venire, sicuramente anche quest'estate ci saranno, per così dire, contatti, rapporti che porteranno a settembre, quando riprenderà l'aula, ad un nuovo scenario. E allora segnaliamo proprio sulla stampa un retroscena di Amedeo La Mattina, che dice: Berlusconi offre la sponda a Renzi, a seconda dei giornali si parla anche di un Renzi bis, e l'ex cavaliere ha interesse a tenere in piedi il governo, ma deve rialzare il partito sopra la Lega. A settembre rischia 10 uscite di parlamentari. Berlusconi comunque ha un'altra priorità, non tanto le riforme, il Senato non elettivo che lui vorrebbe elettivo, ma soprattutto cambiare l'Italicum, no? Il nostro vero obiettivo è la legge elettorale e il premio di coalizione. Serve a noi per andare alle urne con la Lega, ma serve anche a Renzi. Attorno a lui oggi c'è chi non è più sicuro di vincere al ballottaggio. E questo è un po' il tema, no? Perché Berlusconi dirà sì al Senato anche al limite non elettivo, basta che però cambi un po' l'Italicum, perché questo premio di lista che lui a un certo punto ha accettato non va bene per il centrodestra, non è mai andato bene, no? Non va bene perché non consente di aggregare, per così dire, il centrodestra made in Lega, made in Salvini, con quello degli azzurri, di Forza Italia, della tradizione, diciamo, berlusconiana. E lo vediamo che però c'è qualcosa che si muove anche in questo fronte, nella polemica che è nata ieri tra Salvini e la CEI, perché in maniera in qualche modo inaspettata tra Forza Italia e la Lega si è saldato un asse su questo tema. Certamente si giocano una partita che è quella della potenziale concorrenzialità rispetto a Renzi. Ha molto ragione il presidente Napolitano quando dice: la figura di Renzi rischia, per così dire, di essere vista come il connotato politico di questa fase di riforme. E come dici tu, l'Italicum è la chiave di volta. Se consentiranno di sbloccare il premio di coalizione, cioè di passare dal premio alla lista al premio di coalizione, anche il cammino delle riforme molto probabilmente andrà più tranquillo. Dall'altra parte c'è però un'altra strada, diciamo un piano B, che forse Renzi coltiva e che è quello che vede in campo i 10 senatori verdiniani. In quel mare magnum, diciamo, della politica, cioè delle trattative, sì, ci sono accordi, ci sono possibilità di realizzare un allargamento della maggioranza, per ora i numeri non arridono a questa prospettiva, sono ancora troppo pochi. Forse, io credo, conviene a Renzi coltivare l'idea di un patto politico più solido, insomma. Allora, intanto segnaliamo che il patto politico lo potrebbe avere anche all'interno del suo stesso partito, no? Con questi famosi dissidenti Dem, perché oggi su l'Unità, che Bersani ieri ha accusato di essere un po' troppo filorenziana, risponde Gianni Cuperlo a Sergio Staino: caro Sergio, si vince a sinistra, non contesto il ruolo di Renzi, sappiamo che Staino aveva contestato un po' la minoranza Dem, no? E dice: chiamate riforme, scelte che fatte dai nostri avversari avremmo definito irricevibili, questo è Cuperlo. Poi: il PD non basta a se stesso, costruiamo un centro-sinistra unitario, le larghe intese per alcuni non sono più un'emergenza ma una strategia. Quindi questo qui, Cuperlo a Staino anche su Repubblica: così ci separiamo, il leader della minoranza Dem al vignettista, richiamo una scissione di fatto, D'Alema non mi guida, Bersani punge l'Unità, bel modo di conquistare i lettori. E sui social il popolo del PD si divide. Ma quello che voglio segnalare è una galateo per la ditta scritto sul Foglio, dove si descrive: trovati prima un altro posto, cioè quello che Cesare Salvi pronuncia queste parole: l'ultima volta che uno di loro mi ha chiesto un consiglio gli ho detto così, pensaci bene e soprattutto assicurati che ci sia davvero un posto dove andare. È Cesare Salvi che pronuncia queste parole con tono martellato, lui che nel 2006 con Fabio Mussi e Gavino Angius portò fuori dai DS il famoso glorioso correntone, e poi disse, appunto, dicono sul Foglio, non furono più eletti, perché poi il dramma è questo qui: si esce dal Partito Democratico, però poi questa sinistra, quest'area al di là del Partito Democratico di sinistra, ancora non è ben formata, Alfonso. Anzi è tutt'altro che ben formata, perché ci sono varie anche associazioni, non soltanto partiti, che sostanzialmente in questa fase dialogano ma che non sembrano prendere l'abbrivio per costituire un soggetto politico, e anche perché poi se il quadro non si chiarisce sostanzialmente quella potrebbe essere un'impresa fallimentare in partenza, cioè se il quadro rimane quello dell'Italicum, cioè con un premio alla lista e quindi fortemente maggioritario, creare un partito che in qualche modo si inserisce in uno schema che invece è più alla tedesca, proporzionalista per così dire, potrebbe essere vano, semplicemente un tentativo che si risolve nel togliere una percentuale di voti al PD, ma che non porta poi a una reale rappresentanza politica, perché le soglie dell'Italicum sono da questo punto di vista abbastanza incrementi. C'è da registrare questo travaglio interno alla sinistra tout court. Cooper, lo Staino in qualche modo incrociano il fioretto e torna al fantasma della scissione, che è un po', come dire, un tema evergreen quando si parla di sinistra, però questa volta Cuperlo lo dice anche abbastanza chiaramente, cioè se va avanti, il timore è che se va avanti una dinamica per cui la sinistra viene emarginata, a quel punto la formazione di un'altra cosa, di un nuovo soggetto, diventerà una realtà nei fatti. Non lo dicono, ma molti pensano che forse è la riedizione dei DS che potrebbe determinare un cambiamento vero anche a sinistra del PD, cioè di una forza che, pur non essendo centrista, che non avendo in qualche modo i connotati del centrismo renziano, non è però neanche vicina alla sinistra radicale, cioè una forza di governo che ha un'impronta socialdemocratica. Se questo passaggio si realizzasse, forse anche a sinistra del PD qualcosa cambierebbe. Le condizioni di Berlusconi, dice Libero: governissimo per le riforme, il leader azzurro è pronto ad aiutare il premier ma pretende un riconoscimento nell'esecutivo, e Verdini ci riprova confitto. Allora, noi eravamo abituati al fatto appunto della scissione, abbiamo parlato della scissione a sinistra, però oramai ci sono le scissioni anche a destra, Alfonso, perché poi di fatto prima c'è stato Alfano, adesso c'è Verdini, insomma anche Forza Italia perde pezzi. Scissioni e ricomposizioni, è una fase, diciamo, un po' da mosaico, un po' da puzzle, quella che vive la politica italiana in questo momento, però c'è un collante che sostanzialmente è un deterrente formidabile. prima che queste scissioni si realizzino bisogna considerare quanto appeal hanno in un momento cruciale, cioè il momento in cui si chiama l'elettore a votare. E nonostante insomma i Boatos che girano su scissioni di composizioni, formazione di nuove correnti o di nuovi partiti, poi alla fine mi sembra di capire che in Parlamento pochi hanno veramente la volontà di andarsi a misurare con le urne, perché la fase politica conta meno della fase economica e quindi il rischio per tutti è che sostanzialmente il dissenso poi premi i partiti, per così dire, che hanno della politica un'interpretazione più hard, forse al limite dell'antipolitica. Ecco, allora, intanto cambiamo argomento, perché abbiamo visto che sia il Corriere che Repubblica aprono oggi sulla sfida tra Vescovi e Lega, no? Abbiamo capito che c'è stato questo grossissimo scontro. Piazzisti da quattro soldi che, pur di raccattare voti, dicono cose straordinariamente insulse, pur senza citare Matteo Salvini e Beppe Grillo. Il segretario generale della CEI, Nunzio Galatino, intervistato da Radio Vaticana, replica così alle posizioni di Lega e Movimento 5 Stelle sugli immigrati. Controreplica di Salvini: la mia polemica non è contro la Chiesa ma contro chi straparla o ci guadagna. Ecco, la CEI quindi ha proprio sferzato un attacco molto forte, si ricrea un asse nel centrodestra su questo tema. Toti: bene Matteo, non è populismo, il carroccio compatto sulla linea del leader. Anche Zaia polemico con i vescovi. Ecco, Alfonso, qui ci sono due dati molto importanti. Il primo è che la CEI comunque entra nel dibattito politico italiano e vuole avere un suo ruolo, quindi i vescovi continuano a cercare un ruolo molto importante nel dibattito politico italiano. L'altro è questa battaglia di voti a destra, perché poi il Movimento 5 Stelle con Beppe Grillo, no, si sta un po' combattendo i voti di Salvini, è così? Sì, hai ragione perfettamente, perché è singolare che poi questa campagna, perché sostanzialmente è Salvini che in qualche modo stuzzica la Chiesa su questo tema, lo ha fatto finora un po' con basso profilo. Poi due giorni fa c'è stato sul blog di Grillo un post che chiaramente prendeva posizione, quindi chiedeva i rimpatri forzati, chiedeva una stretta nell'accoglienza dei profughi, e guarda caso il giorno dopo Salvini fa un attacco alla Chiesa, in sostanza a cui rimprovera di non fare abbastanza nell'accoglienza dei migranti, che è abbastanza singolare, insomma, per chi conosce un po' chi davvero sta sul campo in questa materia. Però è singolare che sostanzialmente la Lega fa una concorrenza ai 5 Stelle in un terreno, quello dei migranti, che i sondaggi dicono essere caldo dal punto di vista dei consensi elettorali. E vogliamo ricordare che anche i 5 Stelle vivono dissenso interno in questo tema. Forse qualcuno ricorderà che ci fu un emendamento dei senatori 5 Stelle contro il reato di clandestinità e che poi chiamò una delle poche volte sia Grillo che Casaleggio a una reprimenda pubblica, e Grillo disse in quel frangente, ricordo bene, disse: se avessimo detto agli elettori che eravamo contro il reato di clandestinità avremmo preso 4 voti. Quindi questo fa capire che quello è un tema sensibile. Secondo me la dinamica Lega-Chiesa è prettamente elettoralistica, per così dire, prettamente sul piano del consenso, cioè la Lega forse punta a un elettorato cattolico che fino ad oggi non vede così vicino, ma che potrebbe conquistare con una tattica che è quella di chi prima si approccia, cioè dividi per poi avere dalla tua parte almeno una parte di quell'elettorato. Quindi portare una riflessione sul fatto che la Chiesa potrebbe fare di più nell'accoglienza dei migranti e quindi di converso chiedere un consenso alla propria linea, che è la linea, diciamo, del chiudiamo le frontiere, siamo stretti nell'accoglienza dei profughi. Queste due cose si tengono e portano la Lega ad una chiamata, per così dire, del suo elettorato, che nei sondaggi, a quanto risulta, insomma, è in qualche modo premiante. Del resto Galantino lo dice bene, dice: piazzisti da quattro soldi, cioè anche lui coglie, per così dire, la torsione elettorale che c'è in questo. E d'altro canto la Forza Italia interviene con, con Toti, come hai ricordato, ma anche con il responsabile immigrazione che ieri proponeva i checkpoint sulle spiagge per i migranti che vendono, cioè per i Vucumpra. Allora, poi vedremo che c'è anche un'intervista di Luca Zaia a Repubblica, ma intanto diamo la linea al traffico. In primo piano. E appunto riparliamo di questa polemica tra Lega e CEI, l'intervista di Luca Zaia, il governatore del Veneto: i vescovi offendono il mio Veneto cattolico, aprono agli immigrati i loro seminari vuoti, e dice al Papa: dico, ascolti i nostri preti e scoprirà che due migranti su tre non scappano da nessuna guerra. E insomma, io sono cattolico, dice Zaia, ma essere non significa essere bigotti, rispetto alla Chiesa, ma penso che usare termini come piazzisti e altre offese del genere sia prima di tutto un insulto ai cittadini che ci hanno eletti. Poi diciamo, Alfonso Raimo con noi dell'agenzia Dire, diciamo che poi questa battaglia anche contro i migranti della Lega ha dietro, no, anche un po' una battaglia contro un po' islamofobica, si può dire questo, o comunque attenzione anche contro quello che sono gli eccessi, no, dell'Islam, i predicatori nelle moschee. Questo è sempre stato un cavallo di battaglia della Lega. Sì, hanno fatto, loro sono stati i primi a fare, per così dire, una riflessione critica sull'apertura di credito di alcune amministrazioni locali alle comunità islamiche con la costruzione di moschee, con la costruzione di associazioni culturali. È chiaro che in questo frangente però anche quella tematica, che poteva avere dei risvolti per così dire appunto culturali, cioè di politica in senso alto, qui cade in un momento in cui la tensione, per così dire, è alta, cioè la minaccia dell'ISIS, del fondamentalismo islamico in versione terroristica è sentita, nonostante, tant'è vero che la settimana scorsa il Presidente del Consiglio ha riunito tutti i capigruppo di tutte le forze parlamentari a Palazzo Chigi e ha detto: qua su questo terreno dobbiamo stare uniti e non vi sentite in qualche modo estranei quando varcate questa porta. Ecco, questo dimostra che questo terreno è veramente caldo, cioè gli italiani hanno preoccupazione di tutto questo universo, e quindi il timore che per esempio con i barconi possa arrivare qualche malintenzionato, qualche terrorista, tutto questo alimenta un'attenzione su questo tema che forse, mi permetto di dire, consiglierebbe una riflessione più pacata, cioè da parte di chi porta responsabilità politiche, piuttosto che andare allo scontro con un'istituzione importante come la Chiesa Cattolica. Forse questo dovrebbe aiutare a invece una riflessione più serena, perché un conto è la politica che vive queste cose dal punto di vista di chi decide, un conto è il cittadino comune che invece queste cose le vive nella vita quotidiana e però è molto spesso nella condizione di non decidere nulla. Segnala a questo proposito sull'Avvenire un editoriale di padre Giulio Albanese, che è anche un giornalista e che ha vissuto per molti anni in Africa. Per giustizia e per amore, il dovere della Chiesa è quello dei media. Il primo impegno per tutti, scrive don Giulio Albanese, ma davvero per tutti, è chiedersi quali siano le vere ragioni del grande esodo rispetto al quale l'Europa nel suo complesso ostenta un algido cinismo. Guerre e sopraffazioni, certo, ma quanto poco pesa nel nostro discutere la miseria di popoli ai quali abbiamo imposto oneri a non finire e negato ogni rappresentazione mediatica per poter continuare a condurre un'indisturbata predazione delle risorse delle terre dove vivono, che si tratti di minerali pregiati o di fonti energetiche. La dura verità che alcuni vorrebbero non trapelasse mai è che il mondo civilizzato ha ricevuto dalle periferie del villaggio globale molto di più di quanto abbia restituito. Questo ovviamente sull'Avvenire, il giornale dei vescovi, ricordiamo. Don Giulio Albanese. Grillo Salvini invece sul giornale: altro che intesa, sono in lotta per gli stessi voti. La favola sul patto possibile tra 5 Stelle e Lega si basa sulle sparate anti-immigrati. In realtà non potrebbero essere più diversi, ma entrambi guardano ai delusi dalla politica. Rifiutano i clandestini. Libero, denunciati 10 sindaci. Il caso nel Bresciano: difendere la propria comunità diventa un reato. Intanto Siamo arrivati a 100.000 sbarchi nel 2015 e tra la Chiesa e Salvini sono ancora schiaffoni. Passiamo alle altre piccole notizie, però insomma non tanto piccole. Il Fatto Quotidiano apre con più inceneritori per tutti, dal Piemonte fino alla Sicilia, 12 nuovi impianti per bruciare 2,5 milioni di tonnellate di spazzature, 10 le regioni coinvolte, dalla bozza inviata dall'esecutivo ai governatori per il parere. Il ministro Galletti ha già convocato una riunione tecnica per il 9 settembre, bisogna fare presto, questo il caso. Marò, l'accusa dell'Italia, l'India tratta Girone come un ostaggio, scontro durante la prima udienza ad Amburgo, disprezzano il giusto processo, la replica di Deli, parole offensive, oggi le richieste. Allora, questa polemica sui Marò continua, finalmente forse riusciremo ad avere una soluzione, ci siamo dovuti appellare ad Amburgo, Alfonso? Però è un primo passo, diciamo, concreto, c'è una vicenda che si trascina ormai da anni, questa dell'avvertenza, per così dire, della giustizia internazionale, se non altro metterà un punto, perché altrimenti rimarrà, come dire, confinata in una dimensione di diplomazia e di corti interne, di corti nazionali, che non ha portato alcun frutto ad oggi. Il momento dello scontro, cioè il momento in cui l'Italia rinfaccia all'India il trattamento non civile a cui è costretto Girone, è forse necessario sostanzialmente, cioè bisogna passare per questa fase per sbloccare poi un ulteriore sviluppo della situazione. E passiamo alla cronaca, perché sappiamo è morta una ragazza a 16 anni dopo una notte sulla spiaggia, la ragazza è morta a Messina, vista in compagnia di due amici che sono scappati quando si è sentita male, i genitori hanno capito che si trattava di lei dalla descrizione che ha diffuso la polizia, un malore, un festino a base di droghe e alcol finito male, sono queste le ipotesi della polizia sulla morte di Ilaria Boemi, 16 anni, studentessa del liceo artistico Basile di Messina, il cui corpo è stato ritrovato ieri intorno all'una di notte nella spiaggia antistante il lungomare del Ringo della città dello Stretto. E sempre per quanto riguarda il ragazzo morto in discoteca, si indaga sulla droga. Il ministro degli interni Alfano dice: aumentiamo i controlli sui locali. Salento, gli inquirenti cercano la bottiglia che potrebbe aver stroncato Lorenzo. Ieri a Brindisi, 4 adolescenti in coma etilico. Alfonso, sta succedendo questo, le nuove generazioni, forse colpa del cinismo, cominciano a fare abuso soprattutto di alcol, ma poi c'è questo abuso anche di droga non controllata, insomma non è più lo spinello che si fumava un tempo, ecco, questo è quello che emerge, c'è una recrudescenza di morti per quello che poi un tempo si chiamava overdose. Sì, è così, come dire, la droga ha perso il connotato, se vogliamo, ideologico in qualche modo, cioè il lato trasgressivo che aveva avuto negli anni 70, anche 80, e che era in qualche modo anche celebrato da una certa letteratura. Adesso diventa un fatto, per così dire, tra virgolette, quotidiano, domestico, cioè per procurarsi una pasticca di ecstasy non servono grandi somme, non serve neanche frequentare circoli, per così dire, trasgressivi, appunto, e però poi scopri che ragazzi sempre più giovani le assumono, e le assumono in condizioni spesso veramente drammatiche, perché 3 morti nell'arco di un mese, hai ricordato giustamente il caso della discoteca Guendalina a Santa Cesarea, ma c'era stato prima quello del Cocoricò, questa ragazza a Messina, cioè sono neanche ventenni, cioè ragazzi sotto i 20 anni che evidentemente consumano abitualmente sostanze molto pericolose, perché se si parla di ecstasy si parla insomma di una droga che può essere letale. E c'è forse una riflessione che dovrebbe, senza essere moralisteggianti, in qualche modo coinvolgere gli adulti, cioè chiedersi se il momento dello sballo coincide poi con il divertimento, forse qualcosa che è sbagliato insomma nell'indicare una via a dei ragazzi che sono poco più che adolescenti. E d'altro canto c'è anche da dire che le misure che vengono proposte non sembrano poi essere realmente efficaci, perché sento parlare della possibilità del tampone prima e dopo la discoteca, oppure del DASPO, però chiaramente sostanzialmente questo significa spostare, cioè delocalizzare il consumo di droga, di quella droga. Bisognerebbe che questi ragazzi tornassero a frequentare forse anche quelli più grandi, gli adulti, come dire, il mondo adulto, non vedendolo come un mondo separato. Forse lì c'è la chiave per risolvere un minimo di questo disagio. Allora ringraziamo Alfonso Raimo dell'agenzia Dire, grazie, uno dei giornalisti più brillanti della sala stampa a Montecitorio, grazie Alfonso. Grazie a te, grazie Elisabetta. E io vi segnalo Istanbullet, il titolo del manifesto, 4 attacchi a Istanbul e in Kurdistan, 9 morti, 6 tra poliziotti e militari, scontri tra polizia e PKK, attiviste del fronte rivoluzionario di liberazione attaccano il consolato USA, la Turchia di Erdogan è scossa da violenze e scontri interni, è frutto avvelenato della scelta politica di non fermare l'ISIS e bombardare i curdi, con un articolo a pagina 6 di Giuseppe Acconcia. Poi altra notizia che sta sui giornali: Fiamma Nierenstein sarà ambasciatrice di Israele in Italia, orgoglio sionista e temperamento pugnace, scrive il Corriere della Sera, decisiva la vicinanza al premier Netanyahu. Fiamma Nierenstein, 69 anni, è giornalista e scrittrice, è stata deputata del Popolo della Libertà e ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera, è stata anche direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Tel Aviv, insomma un'italiana che fa ambasciatrice a Israele. Grazie. Allora, 2000 incidenti per le buche, l'ultima notizia proprio piccolissima Irene, ed sono quelle lì che accadono a Roma, hai capito? Quando si va in motorino Irene, purtroppo ci sono stati 2000 incidenti, e te lo dico io che vado in motorino a Montecitorio, le buche a Roma si sprecano, ecco. Grazie, grazie a Betta Fiorito, ti ritroviamo domani per la rassegna stampa. Noi annunciamo i temi di cui dibatteremo nel corso di Spunti di Vista. Uno è la lettura, perché in Italia si dice si legge poco, non è così, sono fortissimi i lettori fino a 19 anni. E poi perché ci perdiamo per strada, di questo discuteremo dalle 9, ma prima parleremo di violenze di genere e anche amore, che ruolo gioca nelle cause di separazione e divorzio, perché creare un vortice di sofferenza con delle lungaggini burocratiche che non fanno che aumentare la litigiosità. Ma tutto questo dopo le 8, ora la linea al GR.